Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je Radio Sandona 102.2, ben trovati in compagnia di Alvise per questo nuovo appuntamento in compagnia di Overbooking. Subito i ringraziamenti di Rito, Daniele per tutto quello che fa quando sburata delle manopole elettroniche, Matteo per il coautoraggio di questo programma e Alice che anche questa sera ha deciso di prestarci la voce. Sburata a termine dialettale per cui qui se mi guardano basiti, però ogni tanto è anche giusto ricordarsi delle nostre origini. Bene. Detto questo, un ringraziamento particolare a Radio Sandona che ancora ci permette di trasmettere e Overbooking, ne abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, è un programma che si occupa prevalentemente, anzi esclusivamente di libri e volta per volta ne presenta uno. Questo libro presentato può essere di autori famosi, quindi già emersi, o di autori emergenti. Quest'oggi ci occupiamo di un'autrice emergente che ci ha contattato e ci ha sottoposto il suo primo lavoro. Si tratta di Isa Voi che ci presenta il suo romanzo Domani. A noi il libro ha convinto e siamo qui a presentarvelo questa sera. Isa Voi chi è? Beh, vi anticipo innanzitutto che in questa prima parte del programma ci occuperemo noi un po' qui baldi giovani e giovinessa di presentare il romanzo, ma poi nella seconda parte del programma avremo Isa in collegamento telefonico. Isa è di Novara, quindi è un po' difficile raggiungerci fisicamente. Avremo appunto Isa in collegamento telefonico e potremo approfondire con lei alcune tematiche relative al romanzo Domani. Tra l'altro, se volete intervenire in trasmissione e porre delle domande direttamente ad Isa, potete farlo telefonando allo 0421 560993 o mandando un fax allo 0421 560994. Altrimenti vi ricordo che potete sempre contattarci alla nostra mail che è radio@radiosandona.it e Dulcis in Fundo, vi ricordo che il podcast di questo programma è sempre ascoltabile e sempre scaricabile in rete, come entrando semplicemente nel nostro blog che è bloverbooking.wordpress.com. Ora, senza ulteriori perdite di tempo e senza andare ulteriormente ad autoincensarsi, passiamo a parlare del romanzo Domani. Il romanzo Domani, che come dicevo è il primo lavoro di Isavoy, è un romanzo che tratta un tema non facile. Il tema trattato è la guerra, ossia l'intreccio tra quella che è una storia d'amore tra un ragazzo e una ragazza italiana e una guerra in un paese straniero che in qualche misura lega i due. Ossia, questa, si tratta della storia di Alice e Giuseppe. Alice è la protagonista femminile del romanzo e è una fotoreporter. È una giornalista al suo primo incarico internazionale. Giuseppe è il suo compagno di una vita. Si conoscono fin da bambini. C'è una prima parte del romanzo in cui si parla un po' di come nasce la storia d'amore tra Alice e Giuseppe, ma poi Giuseppe viene chiamato per un'operazione di peacekeeping, che in sostanza è l'invio di un contingente, in questo caso italiano, in un territorio di guerra per favorire la ricostruzione a seguito degli eventi bellici. L'operazione di peacekeeping diventa nel corso del libro diventa via via più tragica, diventa via via più difficile, perché le popolazioni autoctone contrastano in qualche maniera l'operato del contingente italiano. Da qui e questa cosa viene spiegata al lettore tramite le lettere che Giuseppe invia ad Alice. Questo fa sì, e da qui parte poi la storia, che nasca in Alice la volontà di andare a vedere come sta il suo amato e come di essergli vicino in un certo senso. Accanto a ciò, quindi, lei, già giornalista, decide di accettare un incarico per essere cronista di guerra, e viene affiancata in questo da un fotografo di provata esperienza, non certo un novellino, che nel libro si chiama Massimo, appunto non certo un novellino, anzi alla sua ennesima esperienza per quanto riguarda giornalismo di guerra, e da qui prende avvio tutta la vicenda che poi andremo ad approfondire con l'autrice, ma come sempre iniziando andandovi a leggere l'incipit di Domani di Isavoy, sempre dalle sensuali corde vocali della nostra Alice. La pioggia che continuava a imperversare da alcuni giorni lasciava cadere le sue erranti e fragili goccioline sui finestrini del treno, fino a scomparire nel nulla. Già, nel nulla. Proprio questo stava pensando Alice, mentre osservava scorrere velocemente il mare che si perdeva all'orizzonte e quello scorcio di paesaggio, fatto di piccole case che si addossavano le une alle altre, lasciando spazio solo a strette stradine che ondeggiavano sotto quel manto di nuvole. E i suoi pensieri si rincorrevano l'un l'altro, proprio come le lancette di un orologio che vanno avanti, si sfiorano e si alternano in quel perfetto gioco di ruoli, per ritornare sempre al punto di partenza. E sì, ognuno di noi ha una visione personale della vita, finché un giorno si accorge che deve cambiare e comincia a lottare per realizzare i suoi sogni. E aspetti tanto che arrivi quel momento, ma per arrivarci deve avere il coraggio di passare attraverso il fuoco. E per Alice, ora, quel momento era arrivato. 25 anni, una laurea conseguita con ottimi voti, un lavoro soddisfacente conquistato con fatica in un noto giornale e ora l'occasione della sua vita, un reportage in un paese di guerra, per raccontare i drammi e la sofferenza della povera gente. Questa era l'opportunità che aveva sempre sognato e non poteva farsela scappare, proprio non poteva. Alice amava il suo lavoro, le piaceva fare la giornalista ed era estremamente convinta che se trovi un forte legame con la tua professione, allora trovi un modo meraviglioso di vivere. E lei l'aveva trovato. In quel viaggio portava con sé tante speranze, ma anche tante insicurezze racchiuse in alcune lettere che custodiva ben bene tra le pagine di un'agenda che non abbandonava mai. Erano le ultime lettere che Giuseppe le aveva scritto, proprio dalla guerra. Quella stessa guerra che ora Alice si affrettava a raggiungere, come la tappa fondamentale di un destino a cui non poteva mancare. Questo era l'incipit di Domani, appunto scritto da Isa Voi, che è il libro di cui ci stiamo occupando questa sera su Overbooking. Ora, prima di continuare e andare a sentire dalla viva voce dell'autrice un qualche retroscena che riguarda la stesura di questo testo, andiamo con il primo intermezzo musicale della serata, che è una canzone di un gruppo che posso dire abbastanza misconosciuto, che sono i Pains of Pink Purava Adar, che parla anche questo di una storia d'amore. Una storia d'amore che che un po' si può ricollegare a quella appunto tra Giuseppe ed Alice, nel senso che anche qui la storia d'amore che ci dipinge il gruppo parte con i due ragazzi che si conoscono in tenera età e sono più che altro compagni di giochi, e poi evolve in vero e proprio amore. Quindi, coadiuvati dalle simpatiche manine di Daniele, andiamo a sentirci i Pains of Being Poor Adar. Sister, could you find the words to say? Ed eccoci ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà, sempre in compagnia di Overbooking. Come abbiamo anticipato prima del primo intermezzo musicale, il libro di questa sera si intitola Domani, è stato scritto da un'autrice novarese alla sua prima, possiamo dire, esperienza sulla lunga distanza. Si tratta di Isa Voi, che avremo a breve in collegamento telefonico. Come abbiamo appunto anticipato, il libro è un libro che tratta un tema difficile e lo fa in maniera niente affatto scontata. Si tratta del tema della guerra e in particolare del rapporto tra la guerra e come la guerra viene raccontata, ossia il cronismo di guerra. Quindi si narra la storia di Alice, che è questa cronista alle prime armi, alla sua prima vera esperienza internazionale, in un paese martoriato dalla guerra. Non si fa riferimento diretto al paese, ma potrebbe essere un paese qualsiasi che popola le notizie dei nostri telegiornali, e a questo Alice intreccia la sua vicenda personale, la sua vicenda umana e il suo amore per Giuseppe. Ora, quando in redazione, possiamo dire, abbiamo letto questo libro, a noi ha fatto subito venire in mente Kapuscinski. Kapuscinski, scrittore polacco e commentatore di guerra. Kapuscinski nasce come giornalista e giornalista appunto di guerra, giornalista d'assalto, ossia Kapuscinski documenta in una serie di libri, tra l'altro che noi vi consigliamo caldamente, editi in Italia da Feltrinelli, commenta e racconta con un linguaggio talvolta crudo ma molto molto diretto nell'esprimere i contenuti, racconta degli episodi di guerra a partire dalle guerre in Africa, dalle guerre civili che hanno dilaniato l'Africa, passando per il Medio Oriente, l'Asia e in Imperium, che a livello personale è l'ultimo che ho letto, racconta, e qui e questo mi ha fatto pensare anche ad Isa Voi, racconta il suo approccio, prima ancora di diventare giornalista, con la guerra e con quello che ai tempi era la guerra fredda ai tempi successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è un in Imperium proprio Kapuscinski racconta la sua prima esperienza, il suo primo rapporto con l'esercito, con un clima di guerra e con questo mondo che un bambino, il bambino Kapuscinski, non era ancora in grado di capire né comprendere. Lo racconta con un episodio legato ad una coda interminabile che Kapuscinski ha fatto sperando di ottenere delle caramelle, e questo tema poi ritorna in Isa Voi, non tanto la coda per le caramelle, quanto la guerra vista dalla parte di chi magari non la capisce e vista dalla parte dei bambini. Come dicevamo, la storia si disvela e ruota attorno alla ricerca di Giuseppe e Alice, che passa attraverso scenari e attraverso persone che sono state toccate o che l'accompagneranno per un pezzo di strada in questo territorio martoriato dalla guerra, e lei però cerca il suo Giuseppe. Adesso, con l'aiuto della nostra Alice, andiamo a leggere il momento in cui Alice sta per andare, o almeno suppone di star per vedere il suo Giuseppe. Alice era così agitata che quasi aveva paura di intraprendere il viaggio. Sapeva che la sua emozione sarebbe stata fortissima nel rivedere Giuseppe, e questo, in un certo senso, la spaventava. Non fu molto difficile raggiungere il posto, grazie alla vecchia automobile di grossa cilindrata di Michael. Dopo giorni e giorni di vagabondaggio a piedi, per Alice sembra un sogno viaggiare su un automezzo. Percorsi alcuni chilometri, che per lei sembravano interminabili, si arrivò in un paesino non molto popolato, segnato nelle strade e nelle case dalla guerra. Era sera e non si vedeva nessuno per le vie semibuie e silenziose, ravvivate solo da alcune luci lontane che dominavano la zona. Non c'era dubbio, lì si trovava l'accampamento di Giuseppe. Un improvviso senso di quiete e di sicurezza pervase l'animo di Alice, che fu l'ultima a voler scendere dalla macchina, parcheggiata nella strada centrale. Mille interrogativi subito cominciarono a offuscarle la mente. Giuseppe era lì? Avrebbe voluto rivederla? E se si fosse arrabbiato con lei? Ma ora era troppo tardi per inutili ripensamenti. Una volta raggiunti il campo, lì sarebbe stato possibile mettersi in contatto in qualche modo con Massimo e Nicola, e forse la sua terribile avventura sarebbe finita. Michael, che conosceva meglio di tutti il luogo, si incamminò lungo uno stretto sentiero di campagna che, con quel buio, sembrava nascondere chissà quali insidie. Dora, Alice, Speranza e l'altro giovane lo seguirono, accompagnati da un comprensibile senso di inquietudine. E questo era il secondo brano che abbiamo estratto da Domani di Isavoi. E adesso, prima di metterci in contatto diretto con l'autrice del libro, appunto Isa, che ci raggiungerà telefonicamente, e approfondire alcuni dei temi trattati nel libro, appunto con l'autrice, andiamo a sentire il secondo pezzo che abbiamo scelto per questa serata, e è un gruppo statunitense, si tratta dei MAPS, e questa è To the Sky. 102.2 di Overbooking Radio Sandonà. Questi erano i Maps e siamo in compagnia questa sera del romanzo Domani, scritto da Isa Voi, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ci sei, Isa? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Siamo intanto felici dei nostri potenti mezzi e siamo veramente contenti di averti qui con noi questa sera, anche se virtualmente, diciamo. Grazie. Allora, abbiamo un po' anticipato ai nostri ascoltatori quali sono i temi che tratti nel romanzo e volevamo un po' chiederti da dove era nata l'idea, perché ho letto sulla sovracoperta del libro che tu sei stata giornalista per una buona parte della tua vita finora e volevamo chiederti se c'è un legame tra quella che è la tua storia personale e la vicenda un po' che ci narri di Alice. Certo, per precisione io ho fatto la pubblicista, nel senso che ho lavorato per 3 anni in un trisettimanale, proprio negli anni in cui si stava svolgendo la guerra in ex Jugoslavia, quindi in quei 2 o 3 anni ho avuto occasione di vedere con i occhi l'arrivo di notizie proprio in diretta, di foto, di immagini che rappresentavano proprio questa guerra molto dura, e da lì è nata questa voglia di raccontare un po' questo vissuto per far vedere alla gente cosa succedeva proprio in quegli anni. Però in questo libro qua non si menziona la guerra in Jugoslavia, ma vuole rappresentare un po' tutte le guerre per fare capire proprio i drammi che le persone vivono e le conseguenze che può portare a un conflitto. E infatti sì, è una cosa che abbiamo notato anche noi leggendo il libro, c'è questo, in un certo senso c'è una generalizzazione, ossia non dici mai che stato stanno andando, anche se a me cioè, aveva fatto un po' pensare che si potesse parlare dell'ex Jugoslavia perché vanno in treno, ma era un collegamento assolutamente banale, però non però effettivamente tratti dei temi come ad esempio la guerra vista dal punto di vista del contingente italiano o la guerra vista dal punto di vista della popolazione civile che si trova a conviverci, che è generalizzabile in un certo senso a tutte le guerre. Una cosa che ci ha colpito molto è che in più parti, oltre alla vicenda di Alice e Giuseppe, sembra che ci sia un tema che ti sta a cuore: la guerra vista dal punto di vista dei bambini. Certo, anche perché ricordo benissimo in quegli anni lì che i bambini erano proprio la parte della popolazione che aveva risentito molto di questo conflitto, soprattutto tanti bambini erano stati fatti sbarcare con i barconi e fatti arrivare qui anche in Italia, e quindi ho voluto anche fare vedere la guerra dalla parte dei più deboli, nel senso che per fare capire proprio i danni che può portare un gioco pericoloso, nel senso che è un gioco che viene portato avanti dai potenti, che però non si rendono conto poi in realtà dei danni che portano veramente dentro le persone, nei loro sentimenti, nelle loro emozioni. I bambini sono quelli che vengono feriti maggiormente in questa situazione, e soprattutto sono i più indifesi, anche perché non capiscono neanche il motivo di tutto questo dolore. E forse a questo punto sarebbe anche da chiedersi se per i nostri bambini può essere importante leggere quella che è in sostanza una testimonianza che ora ci dici essere in pratica diretta di quello che è un notiziario dal fronte, in sostanza. Ossia, per i nostri bambini magari può essere utile sapere a che cosa si va incontro, visto che magari non avendo visto una guerra, anche a me, io non l'ho mai vista una guerra di prima mano, magari sarebbe bello leggerne, più che almeno per avere un per poter capire che cosa c'è di buono e cosa c'è di buono, certo. Molto poco, e cosa c'è di evitabile in tutto ciò. Certo, infatti questo romanzo è stato anche consigliato come libro, un eventuale libro di lettura per gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori, anche perché non è assolutamente un libro né che vuole saltare la guerra, ma non è neanche un libro, diciamo, di parte. È un libro che vuole dare al lettore un mezzo per capire da solo se la guerra può portare un risultato positivo o negativo. Quindi i ragazzi che leggono questo racconto possono farsi un'idea anche della realtà vera. Infatti ci sono molti dettagli, sia per quanto riguarda proprio la parte militare, sia per quanto riguarda la parte anche che descrive soprattutto la vita reale di quel periodo, soprattutto la mancanza di medicinali, la mancanza di alimenti e tutte queste conseguenze negative che ha portato proprio questo inizio di questo conflitto, che purtroppo è durato moltissimi anni. E quindi può permettere a questi bambini di capire proprio, di questi ragazzi, diciamo, di mettersi proprio nei panni dei bambini che hanno vissuto allora anche questa tragedia. Sì, poi c'è da dire anche una cosa che non abbiamo detto prima, che il tuo modo di scrivere ci ha colpito molto, perché comunque tratti argomenti difficili con una profondità, ma anche con, in un certo senso, con leggerezza, non nel senso di superficialità, ma con un modo di scrivere che non angoscia, pur parlando di argomenti angoscianti in un certo senso. Sì, anche perché per scrivere questo libro ho dovuto fare moltissime ricerche proprio a livello dei mezzi militari, a livello proprio delle tecniche anche, proprio come la metodologia che comporta l'avvio di una guerra, oppure tutti questi piccoli dettagli che vengono descritti proprio in modo minuzioso, ma per rendere tutto più leggero ho dovuto anche mettere dentro, diciamo, una storia d'amore che ha permesso di rendere il tutto un po' più piacevole, perché già la storia è abbastanza drammatica e triste, quindi ci sono voluti anche dei momenti che riguardano sia la storia d'amore, ma soprattutto anche un altro tema, che è quello dell'amicizia, sì. Di cui si parla molto in questo romanzo. Sì, infatti, e è bello anche vedere come nel romanzo, in un certo senso, dei sentimenti importanti come possono essere l'amore, quindi la ricerca della persona amata, e anche l'amicizia, travaricano un po' i confini di quello che è in sostanza è un disastro che porta gli uomini a confrontarsi e a far prevalere l'uno sull'altro, in sostanza. Certo, infatti l'amicizia viene proprio studiata in questo libro, in quanto viene affrontata sia dal punto di vista della situazione iniziale, in cui praticamente le persone che prima erano amici, erano vicini di casa, erano colleghi, improvvisamente si ritrovano il giorno dopo ad essere nemici, semplicemente perché o appartenevano ad un'etnia diversa, oppure perché avevano una religione diversa. Quindi la loro vita viene scombussolata improvvisamente. Dall'altra parte invece si scopre come in alcuni momenti drammatici invece alcune persone, come in questo caso la giornalista Alice, trova proprio conforto in un'altra ragazza del luogo, che praticamente sarebbe tra virgolette una nemica, e invece trova proprio aiuto in questa ragazza che le dà il suo appoggio. Quindi il sentimento dell'amicizia che viene proprio viene vissuto proprio in modo molto molto forte. E tra l'altro a noi quel passaggio lì ha poi fatto pensare ad un altro libro per ragazzi, che un po' si oppone, anzi dà un messaggio forte contro la guerra, che è un libro di Amos Oz, che è uno scrittore di origine ebraica, che è La tigre in cantina, dove il protagonista, che è un bambino, fa amicizia con un soldato inglese che ecco. È nascosto nella sua cantina. Il soldato inglese o americano, ora vado a braccio, gli fa vedere una verità che a lui era ignota. Ecco, E qui, anche qui c'è un altro tratto in cui, ad esempio, quando nel momento in cui si è molto simile, però in modo diverso, in cui ad esempio c'è la possibilità per la nostra giornalista di ritornare in Italia, sì, oppure di ritrovare i contatti con il redattore, ma in quel momento non ce la fa ad abbandonare l'altra ragazza. E quindi decidono insieme, tutte e due, di continuare ancora il loro viaggio insieme, vero, pur essendo dagli occhi, visti dagli occhi degli altri, due nemiche. Però in quel momento il sentimento dell'amicizia unisce due esperienze e due vite diverse, che poi tanto diverse alla fine si scopre non sono effettivamente. Beh, e quindi io volevo consigliare a tutti gli ascoltatori di Overbooking di assolutamente andare in libreria e ordinare Domani, scritto appunto da Isa, che siamo felicissimi di avere ospiti questa sera. Tra l'altro volevo chiederti, il libro è uscito nel 2009? Sì, nel gennaio 2010. E è per Albatros il filo, la casa editrice, in modo sì. che... E si può... sì. Si può ordinare anche o direttamente anche sul sito del www.ilfiloonline.it oppure su tutti i siti online di libri oppure direttamente nelle librerie si può ordinare. E ci dicevi anche poi nel fuori onda che ci sarà una presentazione ufficiale del libro. Certo, che si terrà lunedì 28 giugno alle ore 17 presso la libreria Bookshop in via Scagno Sforza 37 a Milano. Io non posso far altro che rinnovare il consiglio per l'acquisto, in sostanza, e quindi è un invito caloroso ad andare a leggere anche e soprattutto per un pubblico più giovane il libro scritto da Isa. Noi ti ringraziamo veramente molto per essere stata con noi e per averti fatto la gentilezza di farci conoscere questo tuo romanzo. Io ringrazio voi e tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Grazie mille. E anche noi, Daniele fa dei gestacci, e per cui anche noi siamo ormai in chiusura di trasmissione. Io vi rimando alla prossima settimana per una nuova puntata di Overbooking con un nuovo libro di cui ancora non vi anticipo nulla. E vi ricordo sempre che le nostre puntate sono scaricabili o ascoltabili in rete dal blog www.bloverbooking.wordpress.com e potete sempre comunque intervenire in trasmissione o telefonandoci allo 0421 560993 o mandandoci una mail a radio@radiosandona.it. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, come diceva Galeazzi ai tempi d'oro. Si ringrazia Matteo, che senza il quale il programma non potrebbe avere un motivo di esistere, Alice, che come sempre ci presta esofago e corde vocali connesse, Daniele, perché con le sue docili manine fa andare in onda materialmente questo programma e i suoi intermezzi musicali, e come ultimo intermezzo musicale una canzone brevissima di Safjan Stevens.